Ed eccoci un'altra delle novità del palinsesto di Blu Radio Veneto, partito oggi 24 di settembre fino al 30 giugno 2013, una novità che ci porterà verso Rio de Janeiro, idealmente, perché pochi saranno quelli che potranno effettivamente partecipare alla prossima GMG col Papa a fine luglio in Brasile. Noi iniziamo insieme un percorso che ci accompagnerà lungo questi mesi. Road to Rio, Road to Rio, GMG, GMG, GMG e dintorni. Iniziamo un nuovo percorso con la pastorale giovanile, o meglio le pastorali giovanili. Il titolo ci ha ben introdotto, Road to Rio, e quindi Rio e Rio de Janeiro, dove si svolgerà nel luglio 2013 la prossima giornata mondiale della gioventù, a 2 anni soli da quella di Madrid, perché avevamo un po' preso il ritmo dei 3 anni. E 2 anni fa avevamo accompagnato i nostri amici delle pastorali delle nostre diocesi di Padova, Venezia e Treviso, e riprendiamo con loro questo filo, però lungo tutto l'anno, e ci alterneremo appunto fra le nostre 3 diocesi con le iniziative, le proposte, gli approfondimenti legati non necessariamente solo alla GMG di Rio, anche se quella ci fa un po' da punto di riferimento. E iniziamo allora con la diocesi di Padova, col direttore della pastorale giovanile, Don Alessandro Spiezia. Bentornato, ci ritroviamo dopo Madrid. Bene, grazie a voi, bentrovati, bentornati. Dunque, Road to Rio, e in questo primo appuntamento vediamo quale cammino avete pensato, che peraltro è già iniziato, no? con i primi di settembre verso la GMG. Sì, è un cammino che è iniziato un po' di corsa o di fretta, perché i tempi sono stretti. È vero che manca tanto tempo ancora a luglio 2013, ma è vero anche che, essendoci di mezzo i voli aerei, cosa che a Madrid non avevamo, e questo comporta il fatto di accelerare le operazioni, cioè, le procedure di preparazione. È già iniziato in forma informativa, come abbiamo scritto un po' in giro nei nostri dépliant, perché vorremmo differenziare quello che è un'informazione rispetto alle nostre proposte da quello che è una formazione che andremo a preparare e a fare. E rispetto alla formazione, la nostra idea, e per questo poi lavoreremo insieme anche con l'ufficio missionario della diocesi di Padova, col centro missionario diocesano, è quello di caratterizzare in modo missionario la proposta che faremo a Rio de Janeiro. Ce lo suggerisce il Papa nel titolo del suo messaggio, che sarà un po' il messaggio per la giornata mondiale della gioventù: andate, fate discepoli tutti i popoli. Ma ce lo suggerisce anche il contesto in cui andremo, in modo particolare vorrei dire, ma penso per il Veneto, ma anche per la diocesi di Padova, visto che ha un legame molto speciale, particolare, con la realtà delle missioni. Infatti la diocesi di Padova, rispetto ai sacerdoti, i Fidei Donum, che sono sacerdoti diocesani in missione nei vari continenti del mondo, ha proprio una lunga tradizione anche di missione nella terra del Brasile. E non a caso poi proprio in Brasile, a Rio de Janeiro, nei giorni dell'incontro col Papa, vivremo questa esperienza in una delle parrocchie retta, gestita, amministrata dai sacerdoti della nostra diocesi. Ecco, sarà un'esperienza rispetto alle altre GMG un po' rovescio. Di solito si arriva prima dell'incontro col Papa, si incontra il territorio a Madrid, a Colonia, nelle altre posti, si va prima, 10-7 giorni prima. Qui invece voi farete l'esperienza dopo l'incontro col Papa, giusto? Sì, il famoso tempo dei gemellaggi, che di solito precedono la settimana dell'incontro col Papa, in questa occasione verrà posticipato. Sostanzialmente per un problema di date o per un impegno di date, perché essendo la GMG dal 23 al 28 luglio, quindi essendo sostanzialmente una settimana abbastanza in anticipo rispetto alle altre edizioni, allora anticipare ulteriormente la partenza avrebbe voluto dire privare qualcuno della possibilità di potervi partecipare. Dunque, posticipando quello che è l'incontro con poi le realtà locali, con le diocesi locali, ci dà la possibilità allora di allungare un po' i tempi più verso agosto, di spostarci più verso agosto, avendo come riferimento anche 2 figure importanti per la diocesi di Padova, sì, che proprio in terra di missione hanno perso la vita. Sì, come dicevo prima, caratterizzeremo questa GMG in stile missionario, proprio per la tradizione della diocesi di Padova, e abbiamo caratterizzato questa missionarietà, questa dimensione missionaria del nostro viaggio, proprio andando alla ricerca di conoscere, della conoscenza di due figure particolarmente legate alla diocesi di Padova: Don Ruggero Ruvoletto e padre Ezechiele Ramin, due missionari, uno proprio il primo, un sacerdote Fidei Donum della diocesi di Padova, il secondo invece un missionario comboniano nato in diocesi di Padova, che hanno perso la loro vita proprio nel mezzo della loro missione, durante la loro missione, uno a Cacoal rispetto ai problemi dei senza terra, invece Don Ruggero Ruvoletto a Manaus, la capitale dello stato dell'Amazonas, e quindi proprio in centro della foresta amazzonica. Ecco, una vicenda che è abbastanza recente e quindi molti ricorderanno. Torneremo a parlare di questi aspetti anche con gli amici dell'ufficio del centro missionario. Vorrei che ci elencassi gli appuntamenti principali che avete pensato nel corso dell'anno. Sì, certo. Allora, sostanzialmente ci sono due binari su cui si muoveranno gli appuntamenti. Uno più specifico per chi è interessato alla GMG, per chi partirà, ma anche per chi è interessato proprio al tema della missionarietà, quindi un po' aperto a tutti, ma in modo particolare per chi viaggerà, sarà un percorso di stampo missionario, di preparazione. Saranno 5 incontri in cui progressivamente si partirà da un tema più generale sulla globalizzazione, sulla società plurale, per poi andare a finire su temi più particolari rispetto alla realtà del Brasile che incontreremo. Quindi questo è un po' un binario intersecato con l'altro binario, che è quello degli incontri classici diocesani, in modo da dare la possibilità a tutti i giovani, anche a coloro che non partiranno per Rio, anche a coloro che non sono interessati a questo percorso specifico di formazione, di poter assaporare, gustare un po', entrare in questi temi, e sono gli incontri classici della nostra diocesi di Padova. C'è la Via Crucis diocesana, che viviamo all'OPSA, all'Opera della Provvidenza, da diversi anni, poi c'è il pellegrinaggio notturno, e poi prepareremo una veglia di preghiera in concomitanza, non in contemporanea perché il fuso orario non ci aiuta, ma in concomitanza con la veglia di preghiera che i fortunati che andranno a Rio vivranno insieme col Papa il 27 luglio. Bene, ci torneremo su questi appuntamenti nel corso dell'anno. www.pgpadova.it, lì trovate ulteriori dettagli per quanto riguarda la diocesi. Grazie Don Alessandro, alla prossima. Bene, grazie a voi e alla prossima. Road to Rio, GMG e dintorni.